non sei niente, solo chiacchiere e cicchi. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere e cicchi. Solo chiacchiere e cicchi. Sei solo chiacchiere e cicchi. Ovviamente eccoci qua, dicevo ovviamente ci piace ogni tanto intopparci all'inizio, I più attenti, le più attente di voi avranno notato che qualcosa è andato male nella sequenza che precede i 25 o'clock, una sorta di ritualità che ripetiamo da molti anni e che di tanto in tanto giunge quel tocco, quel pizzico di caos. Rimescola le carte e fa uscire dal mazzo il jolly. Vedremo tra l'altro se gli strumenti a disposizione questa sera ci daranno retta o seppure faranno un po' come vogliono loro. Noi comunque ci proviamo a proseguire il discorso dell'altra settimana, ci proviamo e ci teniamo. Nella settimana che precede l'8 marzo avremmo in realtà voluto, ma ci abbiamo pensato solo ora, insomma, o poco fa. Di concentrarci di più del solito, di più di quanto facciamo normalmente, in una scaletta, come si dice, di genere. Sennò poi ci ha preso in corso d'opera, anzi ci aveva già preso parecchio questa roba del deserto. E quindi tutti i suoni che girano intorno alle zone secche, aride, isolate, ampie, vaste. E di come suoni e ambienti in realtà siano contigui, non è indifferente il luogo da dove si parte, dove si vive, dove si nasce, dove si decide di vivere con i suoni che si producono. Anche se questi ambienti magari sono distanti migliaia di chilometri o in altri continenti. Vabbè, comunque 22:52 le frequenze di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa che vive grazie a voi, sta continuando la campagna di radio abbonamento. Avete ascoltato poc'anzi alcuni dei nuovi spot che rendono edotti e rispondono a alcune frequenti. Asked. Si risolvono alcuni dubbi riguardo al finanziamento, al radioabbonamento, a come farlo, a che cosa significa. Per la radio e per tutti voi significa tantissimo, perché significa continuare a far trasmettere questa emittente bene e nel male. Nel male è il caso dello spazio che state ascoltando, nel bene è per quanto riguarda il palinsesto ricco, importante e informativo di Radio Onda Rossa. quello che è il nostro modo di vedere il mondo, la realtà, le cose, di sentirci con gli altri compagni e le altre compagne che stanno in giro per il mondo. Vabbè, comunque vi rammento pure il 61 80 40 01, come dice appunto uno degli spottini. 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale. E la cooperativa culturale Laboratorio 2001 in via dei Volci 56 00185, Roma San Lollo. Onda Rossa, @ondarossa.info, la mail della radio www.ondarossa.info, il sito anche per andare ad aderire alla di abbonamento, 06491750, recapito telefonico del 1977 della radio, 25 o'clock, 25 scritto a numero, @ondarossa.info. Ha ha ha! E questa elaborazione viene da un lavoro di remix dei suoni di Gonja Sufi. Jumax X, che ha concluso già la scorsa puntata, la serie delle cose che avevamo mandato. Un lavoro cui hanno partecipato tutta una serie di manipolatori, di DJ, di producer. The Calypso Tea Party si chiamava questo lavoro, l'abbiamo ascoltato un po' in questi anni, è un lavoro del 2010 se non andiamo errati, del 2012. Lavoro che per leggere le note di copertina occorre avere un microscopio o almeno una lente d'ingrandimento. Comunque Gonja Sufi, che ha scelto di vivere nei territori desertici con la sua famiglia, queste sono le sue produzioni e rimanipolazioni in collaborazione appunto con altri musicisti. Andiamo piuttosto indietro negli anni, ritorniamo al 1987, una cosa che farà senz'altro piacere a Elettrodo di riascoltare, anche se la parte forse più solare di Tech & Dance Spirit Chaser si chiamava. Noi abbiamo preparato la settima traccia. Song of the Nile, benché appunto il disco rimandi molto di più ai suoni di un'Africa più interna, più tropicale, più lussureggiante, in questo lavoro appunto questa The Nile Song, in realtà seguendo il corso del lungo fiume africano, finisce anche per attraversare nei suoni i territori desertici che stiamo affrontando. Dead Can Dance and the Nile Song. Yeah. Questo è un viaggiare adagio sulle acque calme, si possono incontrare anche delle vegetazioni, non è proprio un deserto. Però era The Nile Song. Ma non è questa che deve partire. Ecco qua. Thank you. perché dal Nilo la strada per il deserto è molto breve. Quindi James Usher, Bedouin Wedding. quindi le nozze. Beduine cominciano con una danza così festaiola e finiscono poi in una trance. Trascendente e trasportante. Il vecchio produttore inglese James Usher fra i maggiori produttori di world music e in questo caso di trance. Tre 23 minuti primi, guarda caso. proprio nel momento in cui partivano a dei drive-in, si affacciava qua sulle soglie di Via dei Volsci 56. L'autore della, lo possiamo dire, della masterizzazione, sì, insomma, un disco ormai datato, questo di At dei drive-in. Wrapped in brown paper. Midnight behind the box. I'll be there. Mannequin Republic. Repubblica dei modelli, ovviamente il tutto è sarcastico rispetto a un mondo fatto sempre più di, per almeno un'immagine del mondo fatta di perfezione, di fronte invece a una realtà ben più cruda e differente, cioè fatta di ingiustizia, di imperfezione. Di differenze di genere, di classe, di poteri che si sovrappongono. At the drive-in, loro vengono da El Paso. Questo è il deserto che hanno dentro, il loro modo di suonare e le loro sonorità secche, asciutte. Rimaniamo in quelle zone di deserto, andiamo su una produzione di Omar Rodriguez Lopez, cioè con un pezzo di At the Drive-In, che però vedeva alla voce Juliet Lewis. Anche qui ambientazione polverosa, cespugliosa, una aridità interrotta soltanto da un rado pascolo frequentato da bovini. Uno accompagna la nostra Juliet in copertina. Hard Loving Woman, questo è il blues del deserto. Take me home now. Oh, there ain't no God for me. And I know, I know, I know, I know, I know it's too much, but I'm a heart-loving woman. Yes, I am. Ooh, who needs a heart-loving man? Cade a caso. Lasciamo Juliet Lewis. Questa volta è una dritta strada asfaltata, un nastro grigio con le strisce bianche nel deserto. A percorrerla sono su un tanama. Questa è dedicata proprio alle strisce parallele che camminano lungo questo lungo rettilineo. Parallels. Avrete senz'altro riconosciuti, non poteva non esserci la suggestione dell'arido lontano west del confine col Messico, di quel territorio che abbiamo percorso e ripercorso in queste puntate avanti e indietro, nella forma e nell'accezione più forse culturalmente formante, un vero e proprio genere creato dalle colonne sonore di Ennio Morricone e di lì in avanti. Tanti e tanti hanno attinto da questo tipo di impostazione. E la qualità degli effetti proprio che sapeva creare e sa creare Ennio Morricone. Ricordiamo quanti hanno esplicitamente confessato la loro ispirazione alle musiche delle colonne sonore, in special modo di Morricone, quali ad esempio Star Ridgeway, e un'infinità, nemmeno me ne vengono altri in mente, ma ce ne stanno un'infinità di artisti che si sono ispirati a quel tipo di sonorità. Anche qui forse per osmosi ci sta qualche tipo di parallelo. Loro parlano di un deserto freddo, invece freddo e caldo contemporaneamente, dall'altra parte del mondo, disperso nel centro dell'Asia. Stiamo parlando del deserto dei Gobi in Mongolia. Questa è Gobi, consorzio suonatori indipendenti. Insomma, andiamo a tingere un po' ai classici in questo momento. Onda rossa 06 49 17 50. Dalla cupa, forse se non proprio cupissima, ossessiva preghiera e recitazione dell'OM da parte di Consorzio Senatori Indipendenti, invece alle aperte e suggestive sonorità di quel confine fra Messico e Stati Uniti, arido confine, di cui Calexico, nome della località e nome del gruppo, è un po' l'emblema e il riassunto l'esempio principale. Ballad o Cable Hugh, Calexico. E questa invece è Gravity Greatest Victory, Rex Snorted Coke. Loro hanno poco a che fare con il deserto, effettivamente, ma credevamo che cadessero molto bene in questa selezione. Loro sono di New York e questa è la loro elaborazione più asciutta e torrida. Stiamo parlando di Department of Eagle, il loro primo lavoro. I 15 anni fa del 2003. Thank you. ancora una volta ci addentriamo dentro l'isolamento dei deserti più aridi, più torridi, più privi di vegetazione. Questa è Light Mesa, un altopiano desolato. Questa volta l'hanno percorso Sonic Youth. Nella loro Spinhead Session, lavoro del 1986 ma riedito in tempi molto più recenti, nel 2016. E questo è Balazando, invece, Balaghessi, Sigo, Vincent Segal. Stiamo parlando ci ho messo tutto questo tempo per dirlo, perché perché è abbastanza difficile da pronunciare. Ci proviamo. Un Tomi Koroboru Bougou, che sarebbe un quartiere alla periferia di Balaghe, capitale del Mali. Proprio alle soglie del Sahel e poi del deserto, confine fra le zone sul grande fiume Niger. Fra le zone abitate e le zone desertiche. E sentite in questa registrazione fatta dal terrazzo dell'appartamento di Balaghessi Sigo le pecore che fanno parte della registrazione. Thank you. dall'Africa ritorniamo di nuovo nel sud degli Stati Uniti. The Reaper walks down your avenue. He likes to stop in when you don't know what to do. Questa è la mortale Death Dying and Channel 5. Nothing planned today. Somewhere you swear you swore you heard someone say today's a good day to die, or so said that actor down on Channel 5. So when you're just about living, you really aren't dying, it's all the same thing. When you're just about living, you really aren't dying, it's all the same thing. You're looking down in Kansas, he said. Well, it's hard to look thrilled when you feel half past dead. A little boy thinks to kill himself just so mom and dad could put more food upon their shelf. Today's a good day to die. So said that actor down. Just about living, you really are dying, it's all the same thing. When you're just about living, you really are dying, it's all the same thing. Maybe we're just waking up to die anyway. Maybe we're just waking up to die. I knew a man, he had a girl. They built their own house and meant all the world. Now she looks at him with a tear-stained face. Maybe we're just waking up to die anyway. Maybe we're just waking up to die. He had two jobs, he was never home. When he'd come back, she'd still be in bed alone, looking at him. 1985 Giant Sand. Questo non è un disco, non è un EP, è una via di mezzo, insomma c'ha sei tracce per Nick Olivieri. e Mondo Generator. Sei tracce tutte belle, interessanti, fighe. Poi quando si va a rimettere l'orecchio e nello scorrere questo lavoro, ormai pure questo qui con un bel po' di anni alle spalle, my drinks on empty, need another round. I wanna fly, I wanna ride with you. Ma non c'è scritto quanti. Is this the best? Comunque sì, insomma, tanti anni fa si mandava questa roba e si mandava questa. Questa è Autopilots, 14 minuti dopo la mezzanotte, 06491750 Radio Onda Rossa. Io dico che, come per il radioabbonamento, che tutte e tutti state accogliendo bene e partecipando, c'è tempo, ma insomma è importante che partecipate a questa iniziativa della radio, a questa mobilitazione dei suoi ascoltatori e delle sue ascoltatrici, affinché la radio possa continuare, possa pagare le proprie spese, radioabbonamento, la campagna sul sito www.ondarossa.info. A chi ci vuole bene. Da capo Nick Olivieri, Autopilot. Jet plane with you. I the auto pilot. Qui la copertina è assolutamente gialla, gialla e che ritrae un affresco di quei deserti, sempre del Nord America, quei deserti fatti da quelle montagne tipiche di calcare, di terra rossa, di argille, che ricoprono il suolo arido di questi territori. Campeggiano delle aquile numerose nel disegno, nei tre disegni, quattro disegni, sei disegni in realtà di copertina, tre di una parte, tre dall'altra. Stiamo parlando di Tomahawk e il lavoro direttamente tratto per ispirazione ai canti degli indiani della fine del XIX secolo. Tomahawk in una versione qui più ridotta per questo lavoro, con Duane Dennison alla chitarra e alla chitarra basso, John Steiner alle percussioni e alla batteria e Mike Patton alla voce, alle tastiere, all'elettronica, alle percussioni. Quindi in tre Tomahawk per questo Mescal Right 2, la seconda parte di Mescal Right, decima traccia del lavoro, e insomma siamo in argomento. Questo è il deserto, uno dei deserti che abbiamo descritto, ma che poi a livello sonoro non è così distante dagli altri deserti del mondo che abbiamo affrontato. Eccolo qua, questo è il Mescal Right numero 2 di Tomahawk, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Thank you. E loro vengono dal sud della California, ancora a polvere, ancora sabbia, ancora deserto. Ovviamente dopo che è terminato il rito mescalinico di Tomahawk, Six Organ of Amitans. E questa è la prima traccia di Asleep on the Floodplain Above a Desert I have never seen. Thank you. Queste sono le preziose sonorità di Six Organ of Admittance per ora. Con questo volume 2 dedicato ai deserti chiudiamo la piccola serie. Ancora molte cose si sarebbero potute dire, magari avremo modo comunque di affrontare l'argomento in a pezzetti nelle varie scalette poi delle trasmissioni che verranno, perché è un argomento comunque che si annota con quelli che molte volte trattiamo in termini di predisposizione mentale, di immagine, di ambientazione che alcune sonorità sanno dare. È rimasto senz'altro fuori molto. È rimasto fuori molto ancora, molto stoner, molto desert rock, molto doom, molte sonorità che probabilmente ci sono sfuggite nell'andare ad elencare una 30-35 tracce che trattavano questo tema. Ma appunto, ci rifaremo. Siamo poco oltre il quinto dell'opera per quanto riguarda la campagna di radioabbonamenti. Potrete andare a vedere direttamente dal sito della radio andando a cliccare sul bannerino in alto a www.ondarossa.info. c'è un bannerino appunto che ricorda la campagna di radioabbonamento. SOS tieni, sostieni Onda Rossa. €30 per un anno è la tessera della radio, 1000 di voi. Di voi che ci ascoltate, di voi anche che partecipate in qualche maniera alla vita della radio, la fate vivere, perché la radio è un po' questo, insomma, cerca di essere questo da molti anni, di essere comunque un punto di raccordo informativo delle tante storie che girano fra i compagni e le compagne, fra chi si mobilita, fra chi lotta, ed è a loro principalmente che rivolgiamo quindi l'appello di aderire alla campagna 30 per 1000. Noi ce ne andiamo così, mercoledì prossimo non sappiamo dove andremo a parare. Quel che vi possiamo dire è che per ora il palinsesto in diretta di Radio Onda Rossa finisce qui. Vi lasciamo con la compagna automatica sonata, con le sue repliche, con le sue scalette, le sue proposte musicali. Se ne riparla domattina per la diretta con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali dalla città, lo spazio, il giornale radio alle 13, lo spazio comunicazione alle 13.30, alle 14 tutta scena cinema, alle 16 Attica Blues, oltre la Black Music, alle 17 le schiene del Soul, alle 18 il Mezzedest, alle 20 Tarantola Rubra, è la trasmissione che cura quel che esce di significativo, di importante, che ci piace a livello editoriale. Non sappiamo se domani è la volta di Tarantola Rubra, sì, di Tabula Rasa, scusate. Tarantola Rubra va in onda la domenica, anzi abbiamo salutato poc'anzi Anna, qualche cura durante una rubra da tanti anni. Scusate il lapsus, tabula rasa. Dicevamo, non sappiamo se domani è la volta di tabula rasa, forse no. Non abbiamo fatto bene i conti, comunque mi sembra che la scorsa settimana è andata in onda, quindi potrebbe essere che domani non ci sarà. E si chiude con alle 23 con i cuginetti di Apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costretti a, e costrette a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, obblighi di firma e quant'altro, anche se quant'altro non ci piace dirlo. Non ci garba la parola. È a loro che va il nostro abbraccio, il nostro saluto della notte. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai. Let it begin to-